La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. In questa settimana il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha detto che l'incubo è finito, però poi insomma ci sono state ancora delle turbolenze sui mercati finanziari e noi continuiamo a parlare di donne e crisi economica. Perché? Perché ci sono varie iniziative, perché crediamo fondamentalmente che le donne siano più flessibili e quindi crediamo che le donne poi possano, diciamo così, reagire meglio alla crisi. Un convegno del Partito Democratico proprio tratta di questo. Uscire dalla crisi si può, è una firma per il disegno di legge di iniziativa popolare, misure per favorire l'occupazione femminile e la condivisione e conciliazione fra cura e lavoro. A promuoverlo il Partito Democratico, a promuoverlo la senatrice Vittoria Franco, che è con noi stamattina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senatrice Franco, di che cosa tratta di questo convegno? È possibile più lavoro per le donne, più benessere per tutti, come dite voi dal Partito Democratico? Quali sono le misure che voi volete proporre in questo disegno di legge? Questo è un disegno di legge che noi proponiamo alla firma per farne un disegno di legge di iniziativa popolare, quindi raccoglieremo un minimo di 50.000 firme in tutta Italia con numerosissime iniziative che si svolgeranno per partire dal 30 aprile al 9 maggio su tutto il territorio nazionale, in tutte le regioni, in tutte le grandi province. E voglio aggiungere una cosa a quello che diceva lei, perché è molto importante. Le indagini europee e anche italiane ci dicono che nelle aziende nelle quali c'è un consiglio di amministrazione con almeno il 30% di donne o che abbiano una direzione al femminile, sono quelle imprese che anche in periodo di crisi realizzano il 10-20% in più di profitti. Ed è giusto questo, è proprio ormai confermato da tutti i dati di cui disponiamo, perché le donne, come prima lei accennava, hanno la capacità di essere multidimensionali, di non correre sempre il rischio, di non immergersi nel rischio, ma di essere sagge, prudenti e di lanciarsi e di misurarsi quando appunto le condizioni lo consentono. E questo è un dato che ci deve far riflettere, che ci può aiutare a uscire dalla crisi. Più donne al lavoro significa più posti di lavoro per tutti. Ci sono dei dati anche qui che sono ormai acquisiti. Per ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro si creano 15 nuovi posti di lavoro nel settore dei servizi e nell'assistenza alle persone. C'è un altro dato che ci dà la Banca d'Italia: se il tasso di occupazione femminile raggiungesse il livello di quello maschile, il nostro prodotto interno lordo salirebbe del 17,5%. Quindi possiamo ben dire che più occupazione per le donne significa più benessere per tutti, perché si crea un circolo virtuoso. Anche questo ormai è acquisito, per noi facciamo molta fatica e nella politica troviamo molta resistenza a far passare questa idea nuova, quindi vuol dire che c'è anche un elemento culturale che bisogna un po' smantellare, come dire, e disgregare. E poi noi abbiamo le nostre proposte, se vuole tanto per far capire alle nostre radioascoltatrici quali sono le proposte del Partito Democratico e anche alla maggioranza, perché abbiamo in linea anche Maria Teresa Armosino. Benissimo. Allora, intanto noi proponiamo che sia ridotto il costo del lavoro delle donne, quindi è una forma di incentivo all'occupazione. Un altro incentivo all'occupazione riguarda per esempio il Sud. Nel Sud le donne che lavorano sono soltanto il 31%, l'Europa ci chiede di arrivare al 60% entro il 2010, noi non ce la faremo mai con questi dati. Quindi un credito d'imposta per esempio per le aziende che assumono donne nel Sud. Sostegno all'imprenditoria femminile: il governo di centrodestra purtroppo ha bloccato tutte le iniziative che sono state assunte nel passato su questo tema. L'imprenditoria femminile è l'unico dato positivo nella fotografia molto negativa sull'occupazione femminile in Italia, vuol dire che le donne vogliono investire su se stesse, però hanno bisogno di sostegni appunto, e noi prevediamo nelle nostre proposte, appunto, che vi sia un sostegno sostanzioso all'imprenditoria femminile, e poi per esempio tutelare il lavoro delle donne precarie della pubblica amministrazione che rischiano di essere licenziate coi provvedimenti assunti dal governo di centrodestra. E poi dobbiamo sapere che c'è una discriminazione salariale a svantaggio delle donne che può arrivare anche al 28%, cioè le donne, le professioniste sono le più colpite, arrivano a guadagnare anche il 28% in meno. E quindi anche qui misure che facciano rispettare la legge, perché in Italia la legge in questo caso c'è, ma non viene rispettata e noi ancora assistiamo a grandi discriminazioni a svantaggio delle donne. E poi c'è il problema della conciliazione e della condivisione. Io preferisco usare due termini: conciliazione, che riguarda la maternità e il lavoro esterno alla famiglia, e che riguarda la donna perché è la donna che va in maternità, ma poi c'è la condivisione del lavoro di cura, e questo è un tema nuovo, grande, anche culturale, che sta emergendo in tutto il mondo, che è la condivisione delle responsabilità familiari, e anche qui il riconoscimento del lavoro di cura attraverso un credito d'imposta per le lavoratrici madri, un piano di asili nido che anche qui è stato bloccato rispetto al governo Prodi, che aveva investito alcune centinaia di milioni in un piano di servizi all'infanzia, incentivi per favorire la flessibilità degli orari per le lavoratrici. E poi una cosa importante: noi prevediamo un congedo paterno obbligatorio quando nasce un figlio, perché questo ha un valore anche simbolico oltre che sostanziale, che si deve sapere, devono tutti essere convinti che il lavoro di cura, di partecipazione alla vita familiare spetta alla donna e all'uomo insieme, e questo è un dato anche culturale che noi riteniamo fondamentale, che va assunto, esiste già in altri paesi e anche da noi credo che vada introdotto proprio per sbloccare quella... Insomma, importante questo punto, dobbiamo dare la linea alla regia: il congedo parentale obbligatorio per gli uomini, altrimenti, come noi sappiamo, gli uomini non prendono mai il congedo parentale perché poi sono quelli che guadagnano di più. La quota rosa. Secondo il Partito Democratico, abbiamo sentito la proposta, il disegno di legge di Vittoria Franco, però il governo Berlusconi va contro le donne, riduce le risorse ai comuni, fa diminuire i servizi, aumentare il lavoro di cura delle donne, riduce il tempo pieno a scuola. Cosa risponde l'onorevole Maria Teresa Armosino, PDL? Buongiorno a tutte, grazie per l'invito. Credo che questa sia una propaganda un po' troppo spiccia, così come ha un po' il sapore della propaganda il raccogliere firme per un'iniziativa di proposta parlamentare su questo tema, proprio in concomitanza invece con le scadenze elettorali che interessano il nostro paese, che sono le elezioni provinciali e le elezioni europee. Io contesto evidentemente che sia stato fatto dal governo Berlusconi un taglio rispetto a quelli che sono stati quelli del precedente governo Prodi. Esiste invece un problema di fatto, che è la sottooccupazione delle donne, che è un problema che vede nel nostro paese, segnatamente in percentuale maggiore il sud, troppo arretrato rispetto alla media europea. Io credo che però il problema delle donne debba essere affrontato nel complesso, trattando in contemporanea anche il problema della pensione alle donne, se noi vogliamo arrivare a un clima che sia veramente di parità, quantomeno di parità di norme, prevedendo in un primo luogo, non respingendo a pie pari quella che è una richiesta di innalzamento dell'età pensionabile, ma chiedendo invece che le risorse che scaturiscono da queste siano risorse destinate a ridurre questa differenza occupazionale che esiste e che è inutile, sarebbe stupido assolutamente legare. Cioè lei dice l'innalzamento della pensione a 65 anni proposta dal ministro Brunetta sul Consiglio dell'Unione Europea dal punto di vista per creare quelle strutture in assenza delle quali noi non riusciremo a ridurre questo gap, intendo gli asili nido, intendo tutti quegli istituti e quegli organismi che servono per conciliare il lavoro di cura con il lavoro fuori dalle mura domestiche. La interrompo perché abbiamo sentito la senatrice Franco che ci ha detto le proposte del PD. Quali sono le proposte del PDL per incrementare l'imprenditoria ma anche l'occupazione femminile? Allora, sull'imprenditoria femminile io credo che il sostegno debba essere dato, ovviamente viene dato in relazione a quelle che sono le risorse disponibili, perché nessuno ha una possibilità di emettere risorse che non ci sono. Sono fermamente contraria al sostegni dati a fondo perduto, credo che invece si debba parlare di fondi rotativi e quindi di prestiti che vengono fatti a condizioni vantaggiose per progetti che consentano di avviare quella che è il grande spirito di iniziativa e di adattamento delle donne, che poi possano ritornare in restituzione per finanziare altri progetti. C'è un problema di discriminazione salariale che non nego, perché lo vedo sistematicamente, ma su questo noi dobbiamo anche andare a vedere, e su questo sono d'accordo, una diversa politica della maternità, vissuta secondo un elemento culturale che ancora non sente in questo paese, e cioè come un fatto sociale e quindi che trascende il rapporto del dipendente datore, del dipendente rispetto al datore di lavoro, ma interessa la comunità nel suo insieme, e credo che sia ancor più rilevante oggi questo aspetto nel momento in cui si lamenta, no, da talune parti, e non entro nel merito del a torto o a ragione, un grande incremento di popolazione da parte di cittadini immigrati nel nostro paese, mentre invece questo non avviene per quanto concerne i cittadini italiani, con tutto quello che significa all'interno di una società sia pur multiculturale e multirazziale sulla integrazione di queste culture. Insomma, va benissimo il congedo parentale, ecco, il congedo parentale maschile è molto obbligatorio, quindi vi metterete d'accordo, onorevole Armosini? Per gli uomini sì, perché credo che questo sia un meccanismo che davvero porta sulla strada di condivisioni di responsabilità, che sono il presupposto per il funzionamento della società, a partire dalla sua prima cellula, che è quella della famiglia. Non sono invece d'accordo, sulla base di quella che è stata la mia esperienza, un congedo di maternità obbligatorio in assoluto, perché relativamente invece a questo aspetto io preferirei che esistesse per le donne un periodo che le donne si possono spendere, decidendo quando spenderlo, sia prima o dopo la nascita del figlio, ma secondo quelle che sono le esigenze. Insomma, un'ultimissima cosa, perché poi vorrei sentire appunto Marisa Montegiove. Prego, onorevole Armosino. Ultimissima cosa, discriminazioni salariali sì, ma queste si accompagnano anche attraverso, da eliminare evidentemente, ma sono discriminazioni salariali anche dovute al fatto che le donne meno, riescono meno ad accedere a livelli più elevati. E questa è una vecchia diatriba, onorevole Armosino. Allora, io darei un attimo la parola a Marisa Montegiove, donne manager di Manager Italia. Intanto, non vuoi chiudere, assumi una donna. In Norvegia la rivoluzione rosa ha funzionato. Dove comanda il sesso debole, il 44,2% delle norvegesi, delle donne norvegesi, sono ai posti di comando contro il 2,1% dell'Italia. Marisa Montegiove, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i teleascoltatori. Altra domanda sulla crisi: ci saremmo salvati con le Lehman Sisters, non con le Lehman Brothers, la famosa banca? Insomma, con le donne al comando ci sono meno rischi per la finanza, e che cosa bisogna fare? Abbiamo sentito le proposte del Partito Democratico, del Popolo della Libertà. Stiamo andando verso le elezioni europee, quindi volevamo anche fare un punto su quello che propongono i due partiti maggiori. Però quali sono fattibili e che cosa bisogna ancora fare? Non siamo certi chiaramente che se invece di Lehman Brothers fossero state Lehman Sisters, la cosa non sarebbe degenerata come è stato. Però abbiamo ragioni di affermare che laddove esiste una presenza femminile più elevata, le aziende abbiano affrontato e stiano affrontando la crisi in modo meno traumatico. Chiaramente le motivazioni possono essere varie, non ultima anche la capacità che veramente hanno le donne di adattarsi a molte situazioni, anche alle più critiche, e lo hanno sempre fatto in famiglia, del resto hanno una buona esperienza in questo e l'applicano forse anche nelle proprie aziende. Quindi la capacità di rimboccarsi le maniche, di essere flessibili e quindi creare dalla crisi un'opportunità di cambiamento. Del resto le donne sono anche coloro che maggiormente usufruiscono dei corsi di formazione. Noi lo vediamo anche all'interno del CFMT, che è il centro di formazione proprio per i dirigenti di Manager Italia, dove la frequenza a questi corsi è particolarmente elevata, e lo è in questo periodo laddove si cerca di in qualche modo riempire quel gap professionale, che quindi permetta proprio alle donne di riuscire ad uscire dal tunnel, ecco, anche grazie alle nuove capacità che possono acquisire. Ma detto questo, e ritornando a quanto le due onorevoli hanno precedentemente detto, io sono in parte d'accordo con loro, ma non su tutto. Sono d'accordo sulle proposte, che tra l'altro sono proposte che erano state fatte da Manager Italia, dal gruppo Donne Manager, lo scorso anno in seguito ad un convegno che noi avevamo organizzato proprio sull'uguaglianza e merito per la crescita economica e sociale di un paese, cercando di mettere in risalto quanto sia importante la presenza delle donne nel mondo del lavoro per far crescere un paese. Le percentuali che sono state date precedentemente anche dall'onorevole Franchi sono proprio il risultato di uno studio che noi avevamo chiesto alla dottoressa Zizza della Banca d'Italia di fare per noi proprio in occasione di questo congresso. Noi condividiamo quelle proposte che tra l'altro abbiamo portato anche al Ministro delle Pari Opportunità e abbiamo consegnato anche all'opposizione, e le dirò che a un anno consegna di queste nostre proposte noi chiameremo, e questo avverrà a ottobre, chiameremo proprio la maggioranza e l'opposizione per capire e sapere da loro cosa è stato fatto nel frattempo, perché noi temiamo che sia stato fatto molto poco. Ecco, io la devo interrompere perché il tempo a nostra disposizione è finito. Ricordo che il 63,1% delle aziende italiane non ha donne nel consiglio di amministrazione, e l'Italia è in 67esima posizione per la differenza di trattamento tra uomo e donna. Le dico anche, dottoressa Montegiove, che noi saremo con lei a ottobre per vedere che cosa fanno i partiti. Io ringrazio la senatrice Vittoria Franco, l'onorevole Maria Teresa Armosino, Marisa Montegiove. E voglio però chiudere questa parte politica della Quota Rosa di oggi dando una bellissima notizia: hanno partecipato tutte le parlamentari italiane di opposizione e di maggioranza, è stato approvato il decreto sicurezza che contiene le norme che combattono lo stalking, cioè gli atti persecutori. Da oggi un nuovo strumento a disposizione delle donne per difendere se stesse dalla violenza degli uomini. La quota rosa. In silenzio io mi sono scontrata, mai apertamente, non avrei osato contraddire mio padre. Tuttavia in silenzio lo contestavo dicendo: io non farò mai quello che è capitato a mia madre, di essere totalmente sotto la guida del compagno del padre. E quindi a 3 o 4 anni, non ricordo, ho detto: io non mi sposerò, io non avrò figli. La donna di oggi, le giovani donne che lavorano con me, eccellenti dal punto di vista scientifico e morale, sono quasi tutte mogli e madri. Era difficile ai tempi della mia infanzia, quando prevaleva l'ideale vittoriano, moglie e madre. Per me è importante l'individuo, quello che è, così come non ritengo che un particolare ebreo o islamico o cattolico sia meglio. È lui che dimostrerà se è meglio o peggio degli altri, ma non perché appartiene a un particolare clan. Auguro a tutte le donne l'enorme fortuna che ho avuto, ma riconosco in me una sola dote: indifferenza a me stessa, coraggio e totale indifferenza al mondo che mi circonda. La morte per me non esiste, dato che esiste per il mio corpo, ma non per il mio spirito. E l'avete riconosciuta sicuramente, è il premio Nobel Rita Levi Montalcini, che ha festeggiato il 22 aprile 100 anni. Allora, intanto bisogna dire che essere signorine fa bene alla salute, perché si è longevi. Comunque, per capire chi è Rita Levi Montalcini, qual è stata la sua rivoluzione nel campo scientifico, abbiamo con noi Flavia Zucco, dirigente di ricerca presso l'Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del CNR di Roma, ma poi abbiamo anche ospite da Ginevra, dal CERN di Ginevra, Fabiola Giannotti, che è stata nominata recentemente commendatore dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per capire qual è il rapporto tra donne e scienza. Allora, iniziamo con Flavia Zucco. Professoressa Zucco, qual è stata la rivoluzione della Montalcini nel campo della neurobiologia? Ma secondo me lei ha veramente avuto un'intuizione assolutamente geniale, che è quella di capire che le cellule possono anche da sole produrre dei fattori che aiutano poi ad evolversi. Quindi questi sono quei processi che vengono chiamati autocrini. Lei è stata la prima a individuare questo fattore che ha guidato in particolare il differenziamento del sistema nervoso, quindi del fattore di crescita dei neuroni. In realtà, a partire da questa idea sua geniale, poi i fattori di crescita che sono stati individuati nelle cellule sono moltissimi. Quindi l'idea, diciamo, la grande scoperta della Levi è stata nell'avere confermato, scoprendo il nerve growth factor, l'esistenza di fattori specifici prodotti dalle cellule stesse che aiutano le cellule a maturare nella direzione in cui devono. Quindi una rivoluzione per la quale è stata premiata con il Nobel. Qual è il rapporto tra donne e scienza? Abbiamo sentito lei che diceva: io non mi sarei mai sposata, adesso tutto è cambiato, le mie collaboratrici sono madri, sono mogli, però ai miei tempi non era possibile. È proprio così? Si riesce a fare tutte e due? Certamente in passato è stato molto molto difficile. difficile. Oggi ancora si registra che c'è una percentuale di donne single maggiore in quelle che hanno successo nelle carriere di ricerca, maggiore degli uomini, cioè la presenza o l'assenza di una famiglia negli uomini non è un fattore rilevante, anzi sono quasi tutti sposati, con figli, anche con famiglie numerose, i ricercatori di successo. Invece tra le ricercatrici di successo c'è una percentuale maggiore di single. Quindi, però è vero che le nuove generazioni, come dice la Levi, riescono a reggere meglio la professione. Questo perché sono cambiate tante cose nella società, sono cambiati i servizi di welfare, ma sono cambiati anche i comportamenti, le attitudini delle nuove generazioni di uomini. E questo, anche se non in maniera incisiva e in tutte le società, però indubbiamente sta segnando una svolta. Professoressa Zucco, rimanga con noi, perché dall'universo del nostro cervello noi andiamo proprio verso l'universo con Fabiola Giannotti, che è stata premiata, come dicevo, commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e che fa parte dell'Istituto CERN di Ginevra, dove si sta cercando l'origine dell'universo. Questo poi in sostanza, si sta cercando il famoso bosone, la particella di Dio. Che cosa vuol dire concentrarsi nella ricerca e quanti sacrifici lei ha fatto poi per arrivare al CERN, professoressa Giannotti? Ma senz'altro la ricerca è un'attività che richiede molta molta passione, richiede molta determinazione, quindi chiaramente sacrifici, perché il primo passo chiaramente è una preparazione di base molto molto solida. Però è un tipo di lavoro che si fa se si è appassionati, un po' come l'arte, si intraprende la carriera artistica se si è appassionati di una certa attività, e così anche in ricerca. Quindi sì, ci vogliono sacrifici, ma la passione e l'entusiasmo per quello che si fa chiaramente sono una guida molto, molto importante per quello che si fa. L'altra cosa che ci vuole per essere dei bravi scienziati è essere senz'altro molto curiosi, non dare mai nulla per scontato, porsi sempre domande per andare avanti, non dare nulla per, diciamo, anche grandi scoperte non rappresentano mai la fine, ricerca, ogni passo avanti apre nuove strade, quindi bisogna anche essere molto molto umili. Lo scienziato è una persona umile che si pone sempre nuovi obiettivi e nuove sfide. Come scienziato, chi ha avuto come punti di riferimento? Una Rita Levi-Montalcini, Margherita Hack, che pure è un'altra studiosa, un'altra astrofisica? Senz'altro sono queste donne, sono delle figure di grandissimo modello per le scienziate delle nuove generazioni. Rita Levi-Montalcini chiaramente un esempio brillantissimo, ma ce ne sono anche altre nel passato, Marie Curie per restare nel campo delle donne, ma poi nel campo della fisica delle particelle, che è la mia scienza, figure anche maschili chiaramente come Fermi, come Amaldi, come Rubbia e altri, tanti altri. Professoressa Giannotti, c'è stata un po' di polemica su questa famosa macchina che doveva fotografare l'universo nel primo istante di vita, questa macchina che poi gira attorno a Ginevra, ma attorno a varie nazioni, mi sembra. Siete riusciti poi a riparare la macchina che doveva un po' isolare la particella di Dio? Dio si è ribellato a un certo punto. No, ma diciamo che si tratta del progetto LHC, questo Large Hadron Collider, che è un acceleratore di 27 chilometri, che come lei ha detto si estende nella campagna, alla confine fra la Francia e la Svizzera. È un progetto di altissima tecnologia e chiaramente che ha richiesto sforzi scientifici, tecnologici, finanziari molto importanti, e chiaramente un progetto come questo bisogna mettere chiaramente in conto anche qualche problema, aspetti da migliorare e riparazioni da fare. Ricordiamoci che l'LHC iniziò 20 anni fa con le prime concezioni e sarà sfruttato dal punto di vista della fisica per altri 20 anni, quindi in un progetto che dura 40 anni avere qualche mese di stop e di ritardo dovuto a dei problemi tecnici è da mettere in conto. E al momento stiamo chiaramente riparando l'acceleratore, la parte elettrica che ha avuto dei problemi, e speriamo di ripartire adesso in estate. Io so che non lo dovrei chiedere ad una persona che si occupa di fisica, ma il suo approccio scientifico lo vieterebbe. Pensa poi che alla fine fine ci sia Dio oppure no, esista Dio oppure no. Ma questo non è, diciamo, oggetto. La domanda sulla presenza di Dio rientra nella sfera personale, diciamo. La scienza non è in grado e secondo me non sarà mai in grado né di verificare, dimostrare, né di confutare l'esistenza di Dio. E anche quando si dice che l'LHC permetterà di fotografare il primo istante dell'universo non è corretto. Quello che succede è che quando noi facciamo scontrare fasci di particelle ad alta energia, riproduciamo le condizioni di temperatura dell'universo primordiale, ma non siamo certamente nella possibilità di dimostrare cosa successe al momento del Big Bang, né cosa produsse il Big Bang. Quindi siamo ben lontani studiare l'esistenza o meno Dio, che penso non potrebbe mai essere affrontata da una macchina dell'uomo. In quanto al nome di particella di Dio, data a questo famoso bosone di Higgs, è perché questa particella sarebbe un po' un Deus ex machina che permetterebbe di capire e di rispondere molte domande, molti misteri che non abbiamo ancora elucidato. Noi ringraziamo Fabiola Giannotti e invece Flavia Zucco. Grazie. Che è dirigente di ricerca, l'abbiamo detto, per l'Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del CNR di Roma. Abbiamo sentito Rita Levi Montalcini che parlava anche di spirito, e quindi abbiamo sentito appunto Fabiola Giannotti che dice: una domanda personale dell'esistenza di Dio. Lei come si pone in questa disputa tra scienza e etica? Ma appunto anch'io condivido l'idea che il concetto di Dio sia una proiezione della coscienza individuale, e quindi sta agli individui singoli dare una risposta su questa cosa. Io penso che invece la neurobiologia appunto sta accostandosi molto con gli studi sulla mente e con l'aiuto di queste recentissime tecniche di neuroimaging, cioè di immagini derivate dal cervello, capire quali sono i processi mentali, anche quelli più complessi, cioè quelli di le formulazioni astratte, e a immaginare dei modelli che possano spiegare che cos'è la coscienza, ma anche e soprattutto quella che è l'autocoscienza, cioè la coscienza di sé, che è la cosa più difficile da capire e che è quella che essenzialmente ci differenzia dagli animali. E con questa testimonianza di Flavia Zucco, dirigente di ricerca presso l'Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del CNR di Roma e presidente dell'associazione Donne e Scienza, e la testimonianza di Fabiola Giannotti, fisico dell'Istituto CERN di Ginevra, con questo viaggio tra l'universo cerebrale e l'universo astrale, ringraziamo soprattutto Rita Levi Montalcini, un'icona per le donne nella scienza, ma anche per le donne che vivono la vita di tutti i giorni. La quota rosa. E veniamo a parlare in quest'ultimo blocco di un libro, ma soprattutto di una scrittrice, perché il libro parla poi della scrittrice. Rosetta Loi ha pubblicato La prima mano, che è l'ultimo suo lavoro, è una sorta di storia della sua vita, un compendio, dice lei, giusto Rosetta Loi? Giusto, giusto, perché insomma sfiora delle cose della mia vita senza raccontarla tutta, perché è un libro abbastanza breve. È infatti molto molto breve, edito da Rizzoli, sono circa 180 pagine, 190 pagine. Come si può racchiudere una vita in 190 pagine? Ma infatti io non intendevo racchiudere la vita, è come se avessi voluto raccogliere dei frammenti, dei frammenti abbastanza importanti. E allora ho scritto così questo libro, in cui ci sono una parte narrata sulla mia infanzia, la primissima adolescenza, in modo molto narrativo. E poi ci sono dei flash d'adulta che invece si distinguono anche come grafia, diciamo, perché sono in corsivo, che entrano in questo racconto. Invece che i primi anni mi vengono raccontati in maniera molto più proprio narrativa, ecco. Lei quanti anni ha, lo possiamo chiedere? Sì, io sto per compierne, compio il 15 maggio 78, ahimè. 78, noi abbiamo festeggiato nella prima parte di questa trasmissione un Rita Levi Montalcini. Beh, ma allora sono una giovinetta. Lei è una giovinetta in confronto, però 78 anni in cui lei narra la storia d'Italia. Quando a che età ha iniziato a scrivere? Voglio dire, ecco, che io ho vissuto una storia d'Italia abbastanza drammatica, perché bambina nel fascismo, guerra, ecco. Ho cominciato a scrivere prestissimo, a 9 anni, nel senso che io sono diventata parzialmente sorda da un orecchio che ne avevo 6, quindi avevo difficoltà di comunicazione con i miei coetanei, perché non potevo stare sempre a dire che cosa hai detto. E allora così, per, diciamo, come per dire tutto quello che avrei voluto dire, ho cominciato a scrivere. Mi piaceva, poi mi piaceva molto leggere, mi piaceva molto anche scrivere. Quindi ha iniziato a scrivere, e a che età invece hanno pubblicato il suo primo libro? Molto tardi, cioè avevo 43 anni quando è uscita La bicicletta. 43 anni, e difficoltà, oppure perché proprio bisogna avere un vissuto per poter scrivere? No, io avevo già scritto 2 libri che poi non ho mai pubblicato, e quando ho pubblicato il primo avevo già scritto quello che sarà stato pubblicato dopo. No, perché c'era una certa, nel 74, c'era una certa difficoltà per, diciamo, per le donne a pubblicare, e una certa difficoltà anche se uno non era in un, diciamo, in un milieu letterario. Io venivo da una famiglia borghese in cui veramente i legami letterari non esistevano assolutamente. Quindi anche penso che le due cose sono state due cose che mi hanno ritardato come pubblicazione, certamente. In questo libro lei inizia parlando dell'infanzia appunto nel fascismo. Lei ha già fatto un libro bellissimo, tra le altre cose, La parola ebreo, che è stato molto toccante ed ha avuto un grandissimo successo, però ritorna su questi temi della sua infanzia e poi la liberazione di Roma agli americani. Com'era quell'epoca? Gli avvenimenti di quell'epoca, così sconvolgenti, poi trascinano, l'hanno trascinata per tutta la vita? Beh, voglio dire che mi hanno molto segnata. Intanto vivere un'esperienza come quella della guerra è un'esperienza molto drammatica, anche se ero bambina praticamente. E poi voglio dire, c'è stata un'altra esperienza che mi ha segnato, forse anche quella in senso, in qualche modo negativo, perché con noi che eravamo adolescenti dopo la guerra abbiamo pensato di essere i padroni del mondo. Non so, c'è stata come la guerra era finita, i cattivi erano spariti, erano all'inferno, hanno vinto i buoni, noi siamo i nuovi, e questa è stata un'illusione assolutamente negativa, diciamo. Mi sono sentita poi fuori da tutto, perché c'avevamo una generazione alle spalle che aveva fatto la guerra e che era molto, molto corazzata, diciamo. E poi ne è venuta fuori un'altra che invece i valori risaltavano tutti uno dopo l'altro. Sì, una guerra che però era stata vinta, lo sappiamo benissimo, anche perché appunto avevo citato la parola. Sì, no, ma poi la parola ebreo, insomma, è stata vinta. Sì. E ha portato però degli errori che il mondo fino allora non aveva conosciuto, e si spera non conoscerà più, anche se a mostrarli. Però voglio dire, la guerra è stata molto crudele, già la guerra, eh? Non pensiamo che la guerra fosse un'esperienza, è stata un'esperienza per me, io ero molto protetta, quindi no, io mi arrivavano gli echi, però crudelissima. La cosa, il fatto degli ebrei, dello sterminio, non si sapeva esattamente come si è saputo dopo, ma si sapeva già. Però, voglio dire, un adolescente non si volta mica indietro al momento, guarda davanti e dice, beh, hanno fatto loro, hanno sbagliato loro, chi se ne importa? Questo era sbagliato, però. Questa è stata la vostra generazione anni 60, no? La generazione anni 50, anni 60, del boom economico, dove tutto sembrava possibile. Appunto, ora tutto sembrava il positivo. E ora lei ha... Illusione madornale. Ora a 78 anni si ritrova questa Italia in crisi economica. Sì. E come la vede? Che consiglio vorrebbe dare a delle giovani donne, a delle ragazze? Insomma, non mollate. Non molliamo? No. Mai. Io devo dire che io sono una molto cocciuta, e forse questo mi ha aiutato poi molto, anche nel mio lavoro, una volontà molto forte aiuta. Quello io, il primo consiglio che vorrei dire è: cercate di credere in qualcosa, perché questo è molto importante, e poi non mollate. Lei adesso ha 78 anni, come ci ha detto, quando scrive, qual è il suo obiettivo? Cioè, visto non che il successo obiettivi. È... Quando scrivo onestamente non ho obiettivi. Anche quando io, quando per esempio fosse il mio libro più impegnato, come lei ha detto, è stata La parola ebreo, era sempre per voler raccontare, perché io volevo raccontare una cosa che sapevo e volevo che fosse un libro che andasse nelle scuole, per esempio ci è andato. Quindi non perché nelle scuole vanno molto libri di storia, però rimangono staccati. Io invece, volendo dare una mia esperienza, pensavo che comunicavo più facilmente quello che volevo dire. E volevo dire: guardate, è successa questa cosa spaventosa, guardatela in faccia, perché non deve succedere mai più. Allora, noi la ringraziamo, perché abbiamo capito, insomma, lei ci sta dicendo: bisogna scrivere per testimoniare, questa è la cosa fondamentale. Non c'è dubbio. Questa è una grandissima lezione. Rosetta Loi, La prima mano, è appena uscito per Rizzoli. Buona lettura a tutte le lettrici. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.